America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Massima interconnessione con queste realtà qui. Tu trovi il Fermilab e trovi su 2000 persone 130 italiani, team di ricerca guidati da italiani, persone che lavorano benissimo. L'importante per noi è riuscire a dar loro l'occasione di non soltanto valorizzare il made in Italy dei macchinari, ma anche di valorizzare la qualità che loro spesso hanno appreso in Italia. Bene, questo era il presidente del Consiglio, lo intervistavo durante una sua visita negli Stati Uniti quando si parlava di tecnologia italiana a Chicago, tecnologia meccanica dove siamo, devo dire, avanzatissimi. Ma se l'orgoglio per la tecnologia avanzata nelle macchine utensili è legittimo, devo dire, quando poi la tecnologia meccanica va a coniugarsi con alta tecnologia, lusso, stile e soprattutto auto, beh, allora a quel punto direi che l'Italia può dare il meglio di sé. Vi sto parlando in sostanza di un viaggio americano, in questo caso della Lamborghini. Lamborghini è a Seattle con l'amministratore delegato dell'azienda perché ha inaugurato un nuovo laboratorio avanzatissimo per la lavorazione del carbonio. La Lamborghini è sempre stata all'avanguardia nell'utilizzo di materiali alternativi per le sue carrozzerie e ha scelto di andare a Seattle perché lavora anche con la Boeing, la grande casa di produzione di aerei, che è interessata a usare fusoliere appunto al carbonio. Non solo, Lamborghini ha anche presentato qualche giorno fa a Los Angeles il nuovo modello chiamato Centenario, un modello da collezionista, 40 esemplari, vale infatti 1,7 milioni di dollari, costruito, prodotto in onore del centesimo anniversario della nascita del fondatore Ferruccio Lamborghini. E dunque, per raccontarvi di questa storia della Lamborghini in America e delle sfide che ha questa casa automobilistica, con me ai microfoni di America 24 Stefano Domenicali, amministratore delegato dell'azienda, controllata tra l'altro adesso dall'Audi, che ha il suo incarico da appena 3 mesi. Buongiorno Domenicali. Buongiorno a tutti gli italiani in ascolto. Eccoci, allora ci racconti intanto di questo laboratorio per la ricerca sul carbonio, su questo materiale avanzato. Ma innanzitutto mi preme raccontare a tutte le persone che sono in ascolto che la Lamborghini è stata la prima casa automobilistica che ha investito nella lavorazione del carbonio nell'utilizzo delle vetture, diciamo così, di serie. E quindi questo ci ha permesso di essere davvero i primi ed essere riconosciuti come tali in questo tipo di lavorazione. Il carbonio ha avuto i primi utilizzi nell'ambito sportivo, ma poi dopo noi abbiamo cercato di svilupparlo, in quanto il carbonio ti permette di avere un prodotto altamente tecnologico con dei pesi molto più ridotti, e quindi questo ci ha permesso anche di entrare in contatto con altre competenze, con altre realtà. Ecco, infatti voi state lavorando anche con la Boeing, se non sbaglio, no? Sì, tra i vari partner abbiamo sicuramente anche la Boeing, visto che tra l'altro una delle sedi proprio a Seattle, e non dimentichiamo anche il centro di ricerca avanzato dell'Università di Seattle. E questo perché? Perché gli aerei anche loro usano il carbonio, siamo abituati a un bel aereo solido di ferro, invece stanno sperimentando anche loro con fusoliere al carbonio? Assolutamente sì, ci sono già degli aeromobili che utilizzano questa tecnologia, e quindi questo ci permette di portare avanti delle ricerche che hanno un utilizzo comune. Dunque, voi in America ovviamente avete un mercato importante, anzi credo che sia il mercato più importante. Voi, se non sbaglio, vendete 3.245 vetture all'anno, no? Almeno le avete vendute nel 2015. Di queste un terzo, 1.009, sono vendute negli Stati Uniti. Questo è il mercato chiave per voi. Come mai? Perché c'è questa passione per l'auto, oppure perché gli americani possono permettersi di comprare le Lamborghini più che da altre parti? È sicuramente, come lei ha detto, il mercato di riferimento per noi, con oltre 1.000 vetture all'anno. Gli americani amano da sempre delle vetture dove lo stile, la tecnologia, la passione vengono concentrate in un'essenza unica. Quindi come tale la Lamborghini, devo dire, negli Stati Uniti è stata sempre vista come una vettura di riferimento. Ecco, visto che parliamo di Stati Uniti e di tecnologia, beh, qui devo toccare un tasto che forse per voi è un po' delicato. Perché, come lei sa, insomma, sta decollando ormai l'auto elettrica qui negli Stati Uniti. Anzi, guardi, le faccio ascoltare una battuta che ha fatto Sergio Marchionne qualche tempo fa, proprio a Chicago, quando ci siamo incontrati, quando c'era Matteo Renzi, sull'auto elettrica. Una battuta che, tra l'altro, ingiustamente, sottolineo, mi riguarda. Sentiamo. Garantito che ci saranno le macchine che in alcune circostanze si guideranno da sole, con la possibilità di intervento, ma si guideranno da sole. Quello non è un gran problema. E voi state lavorando anche a macchine di questo ovviamente genere? Certamente. Per te, Mario, senz'altro. Anche questo, guarda. Poi ti ho visto guidare, tu ne hai bisogno. Ecco, ha sentito Sergio Marchion che dice, beh, certo, ci saranno le auto che si guidano da sole e tra l'altro soprattutto per te che ne hai bisogno, non so come mai, io questo lo trovo un po' offensivo perché in realtà sono un provetto guidatore, ma comunque detto da un grande dell'auto, beh, è una cosa che è remarkable, come si dice in inglese. Ma mi dica, qual è il confronto tra lei che deve costruire un marchio per una grande vettura sportiva come la Lamborghini e il fatto che ci stiamo muovendo verso una tecnologia che molti dicono vedrà una combinazione di auto elettriche e auto che si guidano da sole? Il futuro dell'automobile è sicuramente legato alla componente elettrica. Però non dimentichiamoci che Lamborghini è passione, è voglia di divertirsi e in questo momento il nostro mercato di riferimento è quello basato su un motore ancora convenzionale. Quindi ben venga un occhio al futuro, mai dire mai, ma è chiaro che la passione dei nostri clienti si estrinseca nella guida delle vetture ad alte prestazioni che in questo momento solo Lamborghini può garantire. Beh, parlando di emozioni, devo dire quest'anno celebrate anche il 50° anniversario del Miura e io ho avuto l'emozione di salire su un Miura da ragazzino, erano gli ultimi anni di liceo Einstein di Torino, mitico, e un mio compagno di classe, Plinio Zilio, pensi, mi ricordo anche il nome, si presentava appunto a scuola col Miura. Mistero, perché non si capiva da dove avesse i soldi o i contatti per avere questo Miura, perché certamente non era benestante. Il mistero è rimasto, come è rimasta l'emozione. E voi che emozione avete in questo 50° anniversario del Miura? Innanzitutto questo signor Plinio è un vero intenditore, un ragazzo di classe, perché la Miura ha rappresentato per tutti gli amanti dell'automobile una vettura particolare, unica, che per Lamborghini ha rappresentato davvero la macchina che ha caratterizzato un'epoca. Proprio lo scorso weekend abbiamo terminato un evento con dei collezionisti che sono venuti da tutto il mondo con le loro vetture in Italia, sono stati insieme, abbiamo avuto l'occasione di poterli incontrare e vedere queste vetture che hanno già 50 anni girare per le strade italiane, beh, insomma, ha lasciato parecchia emozione a tutte le persone che poi guardandoli in giro per le strade li hanno riconosciuti. Chiudiamo, ci dia un'anticipazione. Quante prenotazioni avete già avuto in America del centenario? Centenario dedicato al 100° anniversario della nascita, no, di Ferruccio Lamborghini? Ovviamente, essendo vetture molto particolari, vengono assegnate dei clienti conosciuti, che sono clienti affezionati a Lamborghini, e ovviamente tra questi 40 ce ne sono parecchi che sono americani. Ma non ci ha detto il numero? No, già tutte vendute, già tutte ovviamente prenotate. Sono tutte vendute perché sono tutte già state pagate, però le consegne inizieranno il prossimo anno. Se non ci può dire il nome, almeno ci sono delle star dello spettacolo, della canzone, dello sport, è un mix vario, ci sono finanzieri, qual è il mix? Allora, devo dire, i clienti Lamborghini sono tendenzialmente clienti giovani, persone che hanno una forte personalità, che vogliono ovviamente farsi riconoscere, che fanno parte di tutti i siti sociali. Molti di loro sono dei fondatori di start-up, dei trendsetter, persone che vogliono farsi riconoscere, perché se c'è una cosa che differenzia i clienti rispetto, se mi posso permettere, all'Italia, all'estero chi si può permettere una macchina importante come la Lamborghini viene visto come una persona che bene o male è arrivata al suo scopo, al suo obiettivo di professione, e quindi viene visto come una persona che si è fatta valere e si è fatta riconoscere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me ai microfoni di America 24 Stefano Domenicali, amministratore delegato di Lamborghini. Stefano, ce la sceglie lei la canzone del giorno? Cosa proponiamo ai nostri ascoltatori? The Song of the Day. The Song of the Day. Abbiamo parlato di Lamborghini, abbiamo parlato di Miura, quindi non posso che ricordare Frank Sinatra, uno dei nostri più importanti clienti, tra l'altro collezionista di Miura, e la sua Miura era proprio presente al raduno della scorsa settimana da noi in Italia. Tra l'altro una canzone che ho visto pochi giorni fa su un video virale su YouTube di un padre e un figlio che la cantavano, quindi Me and My Shadow, Frank Sinatra. Me and My Shadow, Frank Sinatra con Sammy Davis Jr. che inizia la canzone. Like the wallpaper sticks to the wall, like the seashore clings to the sea, like you'll never get rid of your shadow, Frank, you'll never get rid of me. Let all the others fight and fuss, whatever happens, we got us. closer than pages that stick in a book. We're closer than ripples that play in a brook. Wherever you find him, you'll find me, just look. Closer than a miser or the bloodhound's Deliza. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!